ci sono delle frasi, che so, proverbi, citazioni, cose del genere, che a tutti capita di rigirarsi nella memoria e magari qualche volta di ripetere o a propria volta di citare senza in realtà saper bene che cosa esattamente significhino. Io, per esempio, vi confesserò di non aver mai capito fino in fondo cosa intendesse dire Giorgio Federico Guglielmo Hegel in una delle sue affermazioni più citate. Devo averla citata anch'io qualche volta, quella per cui la lettura mattutina delle gazzette rappresenta la preghiera quotidiana dell'uomo moderno. Ho il vago sospetto che volesse semplicemente dire che leggere i giornali non è soltanto un obbligo spirituale, ma la prima attività a cui l'uomo moderno si dedica nel corso della giornata. Non so, come i loro predecessori medievali, appena balzati dal letto, si riassettavano rapidamente il cilicio e si inginocchiavano sul duro pavimento per chiedere perdono al Signore dei peccati passati e futuri, e così i contemporanei di Giorgio Federico Guglielmo non erano ancora del tutto svegli ed erano già immersi nella lettura, che so, della Gazzetta di Jena o dell'Osservatore Prussiano. Almeno quelli che sapevano leggere, che non dovevano fiondarsi all'alba fuori di casa per andare a lavorare e che ricevevano i quotidiani a domicilio. Ho il sospetto che Hegel appartenesse proprio a questa fortunata categoria. Personalmente io non mi considero particolarmente devoto, ma non negherò che anche per me la lettura dei giornali sia un compito quotidiano fondamentale, anche se per inveterata abitudine non me li faccio portare a domicilio, ma li compro direttamente a ridicola quando la mia giornata è cominciata da un pezzo, circostanza in considerazione della quale probabilmente la mia preghiera mattutina dovrebbe essere considerato l'ascolto del notiziario di Radio Popolare o meglio ancora della relativa rassegna stampa. Ma che volete, ho bazzicato con la carta stampata per tutta la vita, sono cresciuto in un'epoca in cui radio e televisione avevano da un punto di vista dell'informazione molta meno importanza di oggi, non mi sento davvero a posto, non mi sento davvero a mio agio finché non sono entrato in possesso della solita mazzetta di quotidiani. Magari non mi diranno niente di più di quanto io abbia già preso via etere, magari non ne leggerò nemmeno i titoli, ogni tanto succede. Ma solo con i giornali in mano mi sento davvero temperato l'imperativo categorico delle informazioni, di aver recitato la mia preghiera. Ebbene, è da lunedì 2 gennaio, dal primo giorno feriale di questo anno 1995, che questa modesta soddisfazione giornaliera mi viene, non dico negata, ma crudelmente stravolta. Non tutte le mattine, per fortuna, ma 3 giorni alla settimana sì, e che non è poco, insomma. Tutti i lunedì, martedì e mercoledì di quest'anno, il piacere di ritirare i quotidiani in edicola mi viene rovinato dall'esercente, che in cambio dei miei fogli da 1000 mi porge con un bel sorriso, insieme ai quotidiani richiesti, una grossa busta di plastica trasparente che contiene i fascicoli dell'Atlante. Dell'Atlante, che uno dei quotidiani di cui sono lettore ha deciso di allegare in omaggio al numero in distribuzione in quei 3 giorni della settimana. E ogni volta che me li trovo in mano mi sento colpito da una fitta di scoraggiamento, da un moto di fastidio, da una prospettiva di tetraggine che non riesco a superare. Perché vedete, io quando passo a ridicola, vi parla strano, voglio il giornale. Solo il giornale, nient'altro che il giornale. Con gli anni sono riuscito a indurire il mio cuore di fronte alle offerte promozionali dei vari editori. Ormai riesco a respingere senza batter ciglio i supplementi medici, le guide al tempo libero. Riesco a fingere di non vedere gli inserti con i programmi televisivi, i fascicoli settimanali a colori. Riesco a scuotere il capo in segno di contesa di niego di fronte alle cassette audio, ai regoli di cartoncino per il calcolo delle calorie, ai gadget di varia natura. Ho imparato a lasciare impassibile al loro posto i supplementi mensili di approfondimento, gli inserti gastronomici, gli albi di figurine e i volumetti istruttivi vari. E soprattutto ho imparato a difendermi dalle promozioni a dispense. Mi sono guardato bene dal collezionare negli anni scorsi le guide alle città europee, i corsi di lingua completi di vocabolario di cassetta, le grandi storie illustrate del cinema. Sarà ostinazione, ma io sono abituato, se mi serve la guida di una città europea, di andarmela a cercare in libreria e cercarne una che sia adeguata alle mie esigenze, e altrettanto si dica per i corsi di lingue e per le storie illustrate del cinema. e di fronte alla spazzatura cartacea, perché non è altro, no? Di fronte a tutta la spazzatura cartacea offerta liberamente dagli editori, la mia preoccupazione principale è quella di non ingombrarne la mia già stipatissima abitazione. Ma di fronte alle buste dell'Atlante, com'è come non è, io mi sento impotente. Da quando sono piccolo io ho sempre adorato gli Atlanti, da quando ero piccolo, ahimè, ho sempre adorato gli Atlanti, mi scuso. Ho sempre adorato le enciclopedie geografiche, sono sempre stato divorato dall'ansia di essere aggiornato delle ultime variazioni di confini, toponomastica e possibilmente bandiere, stemmi e istituzioni delle nazioni del globo. Posseggo una delle più cospicue collezioni di calendari Atlanti e di Agostini reperibili fuori da una biblioteca pubblica, che stanno infatti strabordando dallo scaffale ad essi destinato, e le tavole dell'Atlante che distribuisce tre giorni alla settimana uno dei miei quotidiani sono aggiornatissime, sono chiarissime, sono di splendido aspetto. A rifiutarle non ce le faccio proprio e non riesco neanche a buttarle via. Beh, mi direte voi, e allora tientele. Ma è più facile a dirsi che a farsi. Dove le metto? Non dico a casa, a casa, nonostante la cronica mancanza di spazio, un angolino penso di riuscire a trovarlo, ma dove le metto per strada? Io di solito ritiro il giornale a ridicola, lo piego, lo infilo nella tracolla o nella tasca del soprabito e proseguo per le altre mie commissioni e incombenze. E se non torno immediatamente a casa, cosa faccio delle dispense dell'Atlante? Sono troppo voluminose per stare in tasca o anche nella tracolla, e non è il caso di piegarle, si rovinerebbero, perderebbero la loro freschezza. E allora devo organizzare i miei giri in modo di comprare il giornale per ultima cosa, subito prima di tornare a casa? Potrei, però significherebbe modificare delle abitudini inveterate. Due volte su tre già lo so, me ne dimenticherei. Allora devo uscire, raggiungere l'edicola, ritirare il giornale e la dispensa, rientrare rapidamente a casa, lasciare giù la dispensa e riuscire? No, francamente è troppo macchinoso. E poi so bene come vanno le cose con le dispense. Se cominci a tenerle, è poco ma sicuro che ne finisci schiavo. Già mi vedo ansioso alla prospettiva di perderne un numero, costretto a ricerche edicola per edicola nel caso una fosse sprovvista di quel quotidiano, obbligato a ordinare gli arretrati al prezzo doppio per colmare eventuali lacune, impegnato in difficili trattative con i pochi rilegatori ancora disponibili sul mercato, insomma in vario modo travagliato ed afflitto, e soprattutto mortificato l'idea di aver abdicato a una posizione di principio, la convinzione cui sono sempre stato fedele che i giornali dovrebbero promuovere la propria diffusione facendo meglio che possono il loro mestiere, facendo il servizio che sono chiamati a fornire, un'informazione sempre più accurata e commenti sempre più autorevoli e interessanti. Ma questa prospettiva, per ragionevole che possa sembrare, è assolutamente realistica in un paese in cui i quotidiani non sanno far altro che rendere conto degli interventi in televisione della sera prima. Io, scherzi a parte, grossi problemi non ne ho. Io so già che per uscire dall'impasse finirò per acquistare in libreria quell'Atlante lì, liberandomi dalla tentazione incombente in edicola. E con i tempi che corrono è sempre meglio spendere i soldi in libreria che investirli in borsa o in future, qualsiasi cosa siano in future. Ma non sono sicuro che a forza di dispense, di gadget e di Atlanti si possano risolvere i problemi dell'informazione nel nostro paese. Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni.